basta così, basta quello che sento per te. Non importa sapere chi sei, cosa fai o che cosa farai. Non importa sapere perché siamo qui abbracciati così, senza nome né storia passata o futura che sia. È il momento di questa magia che conta per te e per me. Basta solo pensare che noi siamo solo noi due, io e te, e che tutto finisce così, come un ultimo ballo tra noi, come un ultimo tango tra noi, siamo solo noi due. Importa sapere perché siamo qui abbracciati così, senza nome né storia passata o futura che sia. È il momento di questa magia che conta per te e per me. Basta solo pensare che noi siamo solo noi due, io e te, che tutto finisce così, come un ultimo ballo tra noi, come un ultimo tango tra noi, siamo solo noi due, solo noi.